In quel momento, Madame de Surgit entrò nella sala da gioco a cercare i suoi figli. Scorgendola, il signor di Charlus le andò incontro con un'amabilità di cui la marchesa rimase tanto più gradevolmente sorpresa, in quanto s'aspettava invece un'estrema freddezza da parte del barone, che da sempre s'atteggiava paladino di Orléans e unico della famiglia, troppo spesso compiacente con il duca e le sue esigenze, sia per calcoli d'eredità che per gelosia verso la duchessa, teneva implacabilmente a distanza le amanti del fratello. Madame de Surgit avrebbe dunque capito benissimo le ragioni dell'atteggiamento che aveva temuto nel barone, mentre le sfuggivano quelle dell'accoglienza diametralmente opposta che egli le riservò. Charlot le parlò con ammirazione del ritratto fattole a suo tempo da Jacquet. Ammirazione che si spinse sino a un entusiasmo in parte interessato, volto com'era ad impedire che la marchesa s'allontanasse, ad agganciarla, come diceva Robert, a proposito delle manovre con cui si cerca di mantenere le truppe nemiche impegnate in un determinato punto, ma anche, forse, sincero. Infatti, se tutti si compiacevano ammirando nei figli il portamento da regina e gli occhi di Madame de Sougy, il barone poteva ben provare un piacere inverso, ma altrettanto vivo, ritrovando quelle attrattive riunite in un sol fascio nella madre, come in un ritratto che di per sé non ispira desideri, ma alimenta, con l'ammirazione estetica che ispira, i desideri che ridesta. Questi venivano a conferire, retrospettivamente, un fascino voluttuoso anche al ritratto di Jacquet, che il barone in quel momento avrebbe acquistato volentieri per studiarvi la genealogia fisiologica dei due giovani Surgì. «Come vedi, non esageravo», commentò Robert. Guarda come si dà da fare mio zio con Madame de Surgit. Anzi, in questo caso, la faccenda mi stupisce. Se Orian lo sapesse, andrebbe su tutte le furie. Francamente, di donne ce ne sono abbastanza per non doversi precipitare proprio su quella, aggiunse. Come tutti gli uomini non innamorati, Robert si figurava che uno scelga la persona da amare dopo mille riflessioni e sulla base delle diverse qualità e convenienze. Del resto, pur ingannandosi sul conto dello zio che credeva dedito alle donne, Robert, nel suo risentimento, ne parlava con eccessiva leggerezza. Non si è sempre impunemente nipoti di qualcuno. Molto spesso è con la sua mediazione che prima o poi si trasmette un'abitudine ereditaria. Si potrebbe proporre, prendendo a prestito il titolo della commedia tedesca Zio e nipote, tutta una galleria di ritratti aventi per soggetto uno zio che si adopera con zelo involontario perché il nipote finisca con l'assomigliargli. Aggiungerò che la galleria sarebbe incompleta se non vi figurassero gli zii che non vantano alcuna parentela effettiva, essendo soltanto zii della moglie e del nipote. I signori di Charlus sono infatti talmente persuasi d'essere i soli buoni mariti e inoltre i soli di cui una donna non debba essere gelosa, che generalmente, per l'affetto che portano alla nipote, le fanno sposare un altro Charlus. Il che imbroglia non poco la matassa delle somiglianze. E all'affetto per la nipote s'aggiunge a volte l'affetto per il fidanzato. Matrimoni del genere non sono rari e spesso risultano, anzi, come si suol dire, felici. Di cosa stavamo parlando? Ah sì, di quella biondona, la cameriera di Madame Putbus. Le piacciono anche le donne, ma suppongo che non te ne importi nulla. Te lo dico francamente, non ho mai visto una creatura così bella. Me le immagino abbastanza giorgione, giusto? Follemente giorgione. Se solo potessi passare un po' di tempo a Parigi, quante cose stupende da fare. E poi avanti, una via l'altra, perché l'amore, credimi, è una gran fandonia. Io per me ne sono fuori. Mi resi rapidamente conto, non senza sorpresa, che era adesso altrettanto fuori dalla letteratura, mentre era solo dei letterati che m'era parso deluso all'epoca del nostro ultimo incontro. Sono quasi tutti canaglie o giù di lì, m'aveva detto. Ciò che si poteva spiegare col suo giustificato risentimento verso certi amici di Rachel. Costoro, infatti, l'avevano convinta che non avrebbe mai avuto talento se avesse consentito a Robert, uomo d'un'altra razza, di esercitare un influsso su di lei. E con lei si burlavano di lui, in sua presenza, durante i pranzi che egli offriva loro. Ma in realtà l'amore di Robert per le lettere non aveva niente di profondo, non era un'emanazione della sua vera natura, era soltanto un derivato del suo amore per Rachel, ed era svanito da lui assieme all'orrore per gli adepti del piacere e al suo rispetto religioso per la virtù delle donne. «Che strano aspetto hanno questi due giovani! Guardate, Marchesa, con quale bizzarra passione stanno giocando!» disse Charlot, indicando a Madame de Sourgy i suoi due figli, come se ne ignorasse l'identità. «Devono essere due orientali. Hanno certi tratti caratteristici. Forse sono turchi!» aggiunse per ribadire ulteriormente la sua finta innocenza e insieme lasciar trasparire una vaga antipatia che più tardi, quando avesse ceduto il posto all'amabilità, avrebbe testimoniato come quest'ultima si indirizzasse unicamente alla loro qualità di figli di Madame de Sourgy, collegandosi alla scoperta, fatta appena allora dal barone, di chi essi fossero in realtà. Ma forse il signor di Charlot, la cui insolenza era un dono di natura da utilizzare con gioia, approfittava anche del breve intervallo durante il quale si presumeva che egli ignorasse il nome dei due giovani per divertirsi a spese di Madame de Sourgy, abbandonandosi ai suoi consueti sarcasmi, così come Scapin mette a profitto il travestimento del padrone per somministrargli qualche scarica di bastonate. «Sono i miei figli», disse Madame de Sourgy arrossendo, come non le sarebbe accaduto se fosse stata più perspicace senza essere più virtuosa. Avrebbe capito in quel caso che il tono di assoluta indifferenza o di scherno esibito da Charlot nei confronti di un giovane non era sincero, non più di quanto l'ammirazione affatto superficiale attestata a una donna esprimesse il vero fondo della sua natura. Colei che egli era capace di intrattenere all'infinito con i discorsi più complimentosi avrebbe ben potuto ingelosirsi per lo sguardo che il barone, senza interrompere quei discorsi, lanciava a un uomo cui fingeva poi di non aver fatto caso. Quello sguardo, infatti, era diverso dagli sguardi che Charlot rivolgeva alle donne, uno sguardo particolare che saliva dal profondo e anche ad un ricevimento non poteva trattenersi dal correre ingenuamente verso i giovani, così come gli sguardi d'un sarto rivelano la sua professione per la spontaneità con cui si fissano sugli abiti. «Non è curioso, davvero curioso», commentò non senza arroganza il signor di Charlot, con l'aria di chi impone al suo pensiero un lungo percorso per condurlo sino a una realtà completamente diversa da quella che finge d'aver supposta. «Ma io non le conosco», aggiunse, temendo d'essersi spinto troppo in là nell'espressione dell'antipatia ed aver così paralizzato nella marchesa l'intento di farglieli conoscere. «Vorreste consentirmi di presentarveli?» chiese timidamente Madame de Sourgy. «Ma Dio mio, come volete, per me va benissimo, forse non sono una conoscenza particolarmente divertente da fare per due persone di così giovane età», salmodiò il signor di Charlot con l'esitante freddezza di chi si lascia strappare un favore. «Arnulf, Victurnien, venite qui, presto», disse Madame de Sourgy. Victurnien s'alzò con prontezza. Arnulf, che non vedeva più in là di suo fratello, lo seguì docilmente. «Ecco, adesso è la volta dei figli», osservò Robert. «C'è da morir dal ridere. Si sforza d'essere amabile con tutti, anche col cane di casa, faccenda tanto più comica in quanto mio zio detesta i gigolò. E guarda con che aria compunta li sta a sentire. Se fossi stato io a volerglieli presentare, puoi scommettere che mi avrebbe mandato a quel paese. Senti, bisognerà che vada a salutare Oyan. Rimango così poco a Parigi che voglio cercare di vedere qui tutte le persone dalle quali, se no, sarei costretto a passare». «Che aria ben educata questi ragazzi, che modi squisiti», stava dicendo Charlot. «Trovate?» si estasiava Madame de Sourgy. Swann, che m'aveva visto, s'avvicinò a Saint-Loup e a me. La gaiezza ebraica era in Swann, meno fine delle battute dell'uomo di mondo. «Buonasera», ci salutò. «Dio mio, così, tutte e tre insieme, penseranno a una riunione di sindacato. Ancora un po' e si informeranno dove sia la cassa». Non s'era accorto che il signor di Beausefeuille gli stava giusto alle spalle e lo sentiva. Il generale aggrottò involontariamente le sopracciglia. La voce di Charlot risuonava vicinissima a noi. «Ma davvero? Vi chiamate Victurnien come nel cabinet des antiques?» Stava divagando il barone per prolungare la conversazione con i due giovanotti. «Già di Balzac», rispose il maggiore dei figli Surgi, che del romanziere non aveva mai letto una sola riga, ma non ignorava la propria omonimia con Desgrignon, segnalatagli soltanto pochi giorni prima dal suo professore. Madame de Surgi era estasiata vedendo il figlio brillare davanti a un signor di Charlus, incantato da tanta dottrina. «Pare che l'Ubé sia tutto dalla nostra parte. La notizia mi viene da fonte attendibilissima», disse a Saint-Loup, ma stavolta a voce più bassa, per non farsi sentire dal generale, Swann, per il quale le relazioni repubblicane della moglie erano diventate più interessanti da quando l'affare Dreyfus era al centro dei suoi pensieri. «Ve lo dico perché so che vi impegnate a fondo per la nostra causa». «Beh, fino a un certo punto, temo proprio che vi sbagliate», lo smentì Robert. «È un affare impostato male, nel quale sono pentitissimo d'essermi invischiato. Non c'entravo per niente io. Potessi tornare indietro, me ne terrei completamente fuori. Sono un soldato, l'esercito prima di ogni altra cosa. Se resti un attimo con il signor Swann, ti raggiungerò subito, vado a salutare mia zia». Ma vidi che era invece con Mademoiselle d'Ambrezac, che si fermava a parlare, e mi rattristò il sospetto che m'avesse mentito circa il loro possibile fidanzamento. Ritrovai la serenità quando seppi che lei era stato presentato mezz'ora prima da Madame de Marsan, la quale desiderava quel matrimonio per la grande ricchezza degli Ambrezac. «Insomma», disse il signor di Charlus a Madame de Surgi, «ecco qui un giovane istruito che ha letto, che non ignora l'esistenza di Balzac. E mi fa tanto più piacere incontrarlo proprio dove è diventato così difficile. In un mio pari, in uno dei nostri», aggiunse calcando la voce su queste parole. I Germans avevano un bel fingere di ritenere tutti gli uomini uguali. Nelle grandi occasioni, quando si trovavano fra persone nate e soprattutto nate meno bene, che si desideravano e potevano lusingare, non esitavano a tirar fuori i vecchi ricordi di famiglia. «Una volta», riprese il barone, «essere aristocratici voleva dire essere i migliori, per intelligenza, per cuore. Ora ecco il primo che trovo fra noi che sappia chi è Victurnien d'Esgrignon. Ma no, sbaglio, non è il primo. Ci sono anche un Polignac e un Montesquieu», precisò Charlus, sapendo che questa doppia assimilazione non poteva non inebriare la marchesa. «D'altronde i vostri figli hanno qualcuno da cui prendere. Il loro nonno materno possedeva una celebre collezione del XVIII secolo. Vi mostrerò la mia se un giorno vorrete farmi il piacere di venire da me a colazione», disse rivolto al giovane Victurnien. «Vedrete una curiosa edizione del Cabinet des Antiques con correzioni autografe di Balzac. Sarò felice di poter confrontare fra loro i due Victurnien». Non mi risolvevo a lasciare Swann. Era ridotto ormai a quel grado di spossatezza in cui il corpo d'un malato non è più che una storta dentro la quale si osservano delle reazioni chimiche. Il suo viso s'andava coprendo di piccole chiazze blu di Prussia che sembravano non appartenessero al mondo vivente ed emanava quel genere d'odore che al liceo, dopo qualche esperienza, rende così sgradevole restare nell'aula di scienze. Gli chiesi se era vero che aveva avuto una lunga conversazione col principe di Guermont e se fosse disposto a raccontarmi com'era andata. «Ma certo», rispose. «Prima però andate un momento con Charlus e Madame de Surgi. Io vi aspetterò qui».